Federico Bacchiocchi. Bologna è particolarmente piegata dal problema ambientale e dell'inquinamento dell'aria. Sono continui gli sforamenti delle polveri fini e le emissioni quindi connesse. Quindi una delle nostre proposte è la salvaguardia dei polmoni verdi della città, la speculazione edilizia e opere impattanti e la chiusura del centro al traffico per riduzione delle emissioni atmosferiche. Chiaramente la nostra presentazione è una presentazione che ha un rilievo nazionale, perché ci presentiamo a Bologna come partito, ma anche in altre grandi città come Roma, Milano e Torino, e dappertutto proponiamo una inversione di tendenza sulle politiche ambientali, con una oltre all'investimento sulla protezione dell'ambiente anche alla nazionalizzazione senza indennizzo per grandi azionisti delle imprese inquinanti.